con Vittorio Bo, curatore della 14ª edizione del National Geographic Festival delle Scienze dal titolo L'Invenzione, a Roma, Auditorium Parco della Musica, dall'8 al 14 aprile 2019. Vittorio, ben trovato. Benvenuti, anzi, grazie a voi. Io dico già benvenuti pensando che voi veniate tanti al festival. Cos'è questo festival? Questo festival è certamente un modo per sottolineare l'importanza della scienza nella nostra vita e per far capire, comprendere quanto la scienza sia parte fondamentale, quindi che non esista una divisione tra cultura e scienza, ma che invece la cultura è scienza, scienza e cultura, attraverso diverse forme che sono state pensate per diversi livelli di partecipazione, quindi dai bambini fino ai grandi scienziati, e attraverso degli incontri, dei laboratori didattici, dei filmati, della musica, visto che siamo al Parco della Musica, ma anche nella grande città di Roma, perché non saremo solo all'auditorio, ma saremo in ben 46 location diverse di Roma, soprattutto le biblioteche, ma tantissimi altri luoghi. E la scienza viene raccontata e fatta in qualche modo vivere in maniera diretta, la più diretta possibile, perché sia amata, perché sia apprezzata e perché c'è un dialogo molto stretto. Poi quest'anno abbiamo, diciamo, la fortuna di avere l'ispirazione da una grandissima celebrazione che è quella dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, che è, diciamo, la summa, la quintessenza dell'unione tra scienza e arte. Quindi a lui ci ispiriamo per guardare a quello che abbiamo fatto, ma soprattutto per quello che si può fare per il futuro, insomma. Stavo pensando a questo titolo, L'Invenzione, e in qualche modo l'obiettivo del festival di far arrivare la scienza a tutte le persone e quanto le invenzioni a volte siano nate grazie proprio a persone comuni, casualmente svincolate dall'ambito scientifico. Beh, certamente c'è una parte della nostra creatività, del nostro intuito, della nostra anche così piccola ossessione o grande ossessione, perché si pensa sempre agli inventori come a qualcosa che adesso si pensa ancora, ma si pensava soprattutto prima che fossero isolati. È vero che adesso le invenzioni sono spesso collettive, però c'è un modo per arrivare a un processo, no? Il processo dell'invenzione è un processo lungo, non è detto che questa poi si realizzi, ci sono tante invenzioni che sono frutto di una bellissima intuizione, ma poi una scarsissima applicabilità. Noi rappresentiamo l'invenzione anche attraverso, per esempio, una mostra che celebra la creatività italiana, che faranno vedere alcune decine di prodotti, vere applicazioni che vengono da dei brevetti, e quindi raccontiamo anche la storia di una parte dell'Italia attraverso dei materiali, dei contenuti che si vedono, si toccano, dal freno a disco della Brembo per la Ferrari, alla mano robotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, al pneumatico Pirelli, a tanti altri esempi molto interessanti. Però l'invenzione, appunto, è qualcosa che Leonardo, anche lui ce lo insegna, non è assolutamente pensato in maniera immediatamente applicativa. Pensiamo, per esempio, che Leonardo disegna l'aliante, una delle sue ultime grandi invenzioni. Lui, quando nel codice del volo degli uccelli, immagina come potrebbe l'uomo volare, e poi si disegna delle macchine che saranno così prodromiche, anticipatrici, come anche l'elicottero, il cosiddetto vascello volante. Se uno guarda quei disegni più di 500 anni fa, dice: ma lì c'era già l'intuizione dell'elicottero, c'erano gli studi per il moto dell'aria, e questo, insomma, è una caratteristica che noi vogliamo mettere in evidenza di quanto positivo sia il pensare a delle forme di innovazione e di contributi che possono essere utili non solo a chi li inventa, perché sviluppa certamente un grande piacere, un grande entusiasmo, ma anche poi chi li partecipa, chi li contribuisce. Visti tanti luoghi della città interessati al festival, come sarà articolato? Allora, al Parco della Musica noi siamo dappertutto, salvo a Santa Cecilia, ma in qualche modo siamo anche lì perché nel foyer, nella cavia ci sono delle installazioni per soprattutto per i ragazzi delle scuole. Quindi ci sono i laboratori didattici che sono soprattutto all'auditorio e in alcune sedi biblioteche. Ci sono degli incontri che si sviluppano in auditorium e anche fuori. Faccio un esempio, per esempio all'Orto Botanico noi faremo 5 incontri con 5 grandi scienziati che racconteranno l'Orto Botanico in sezioni, uno per ciascuno dei giorni feriali della settimana. E così in tanti altri luoghi ci saranno incontri per presentazioni di libri nelle biblioteche, ma anche nei laboratori dell'Agenzia Spaziale Europea. Insomma, c'è una diffusività estremamente larga dei effetti. Poi ci sono i film che verranno proiettati soprattutto al Maxi. Poi c'è tanta musica, c'è tanta opera artistica perché avremo una grande apertura con un concerto su Leonardo che si intitola Shaping the Invisible, lunedì, con un grandissimo esperto di Leonardo che è Martin Kemp. Poi c'è al martedì un'anteprima di un contest, come si dice, americano premiato al Sundance, che si è Science Fair, per scoprire i talenti dei ragazzi. Poi ci sarà Serena Dandini che parla della sfinge plurale, poi c'è un'opera musicale sul DNA prodotta dall'Istituto Italiano, dall'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Poi c'è una bellissima opera di danza che si ispira alle teorie di un fisico italiano molto importante che è Mario Radetti. Poi al sabato ci sarà una sinfonia dedicata a Frankenstein, o meglio dedicata a Mary Shelley, che ha scritto un musicista contemporaneo che si chiama Mark Gray e che interpreta e omaggia Mary Shelley attraverso una sinfonia dedicata al grande personaggio di Frankenstein, che sta poi molto nell'invenzione, perché Mary Shelley a soli 19 anni si inventa un personaggio che diventa attuale, poi sempre più attuale fino ai giorni nostri, perché quello che lei immagina, quello di creare un uomo attraverso dei pezzi di altri uomini, di cadavere, che poi risuscitano attraverso questa forma che lei attribuisce, che lei conferisce a questo personaggio, che è estremamente attuale. Tra l'altro questa sinfonia verrà seguita poi da un incontro molto interessante tra un giornalista scientifico inglese che si chiama Marco Connell e da una robotica polacca sul tema dell'umano postumano, cioè quanto noi siamo andati avanti o quanto possiamo continuare ad andare avanti in termini anche di controllo, quindi di eticità di questo processo che sembra inarrestabile, no? E queste sono domande che noi vogliamo porci e porre ai tanti interessati ai temi del festival, insomma, che non sono solamente quelli scientifici, appunto, perché Mary Shelley è una grande scrittrice, quando lei inventa il personaggio di Frankenstein, poi c'è qualcuno che insieme a lei inventa il vampiro, insomma, in quel periodo gotico, romantico dell'inizio dell'Ottocento. E tanta letteratura, come così, ci sono per esempio delle letture al Teatro Valle e al Teatro Argentina tra invenzione e letteratura. Non tutti sanno che Primo Levi ha scritto dei meravigliosi racconti di fantascienza che lui ha raccolto in un volume che si chiama Storie naturali, in cui lui anticipa in maniera straordinaria alcuni temi contemporanei. Per esempio anche lì quello della realtà virtuale o della replica, del mimete, della replica dell'uomo, lo fa anche in modo molto divertente. Ci saranno 4 giornate di lettura da martedì al venerdì alternate tra Valle e anche un altro bellissimo racconto di Paolo Volponi che si chiama Annibale Rama sulla storia di un inventore. Insomma, c'è molto da da vedere, da sentire, da ascoltare e da partecipare. In chiusura ci dai tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Ah, certamente, certamente, perché vabbè, il sito principale è quello dell'auditorium, che è www.auditorium.com, e c'è l'applicazione che stiamo sviluppando, che verrà rilasciata in questi giorni. Ci sono due hashtag, che sono hashtag Festival delle Scienze e hashtag NGSF. E allora ricordiamo l'appuntamento con la 14ª edizione del National Geographic Festival delle Scienze, dal titolo L'Invenzione, a Roma, Auditorium Parco della Musica, ma anche tanti altri luoghi della città, dall'8 al 14 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al curatore Vittorio Bo. Un abbraccio, un in bocca al Grazie lupo, a risentirci presto. a voi. E arrivederci lì, da tutte le parti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao.